Investire informati. It's the final countdown. Ebbene sì, è cominciato il conto alla rovescia per la nostra iniziativa di settimana prossima, della prossima settimana, giovedì 26 novembre. Vi vogliamo tutti collegati nel pomeriggio alla nostra Digital Round Table, e c'è una tavola rotonda in formato digitale perché fisicamente purtroppo non possiamo incontrarci. Speriamo di poter riproporre eventi fisici a partire dall'anno prossimo, ma per il momento ci accontentiamo di questa modalità, ma che in ogni caso è molto utile perché dà sicuramente la possibilità a molte più persone di seguire gli eventi che organizziamo noi, come se ne organizzano tanti in questo periodo. Quello che organizziamo noi la prossima settimana è sulla previdenza integrativa, la previdenza complementare, il mondo dei fondi pensione. La crisi economica scatenata dal Covid purtroppo sta rischiando di far passare questo tema importantissimo per molti lavoratori italiani in secondo piano, e invece bisogna che ci mettiamo assolutamente la testa, perché siamo molto preoccupati per il nostro futuro pensionistico ma non facciamo abbastanza. Ecco perché abbiamo voluto organizzare questa iniziativa con ospiti di primo piano, i player più importanti del settore, ospiti istituzionali, e quindi iscrivetevi. Per informazioni potete scrivere a iniziative speciali @radio24.it. Sarà possibile in quella giornata porre delle domande ai relatori proprio durante la diretta tramite il portale interattivo. Potete seguire l'evento naturalmente registrandovi al link che trovate in evidenza sulle nostre pagine Facebook e Twitter, ma anche sul sito di Radio 24 alla pagina degli eventi. Mauro, ho detto tutto? Hai detto tutto. Io ricordo, naturalmente ribadisco il concetto e perché abbiamo scelto il conto alla rovescia, il final countdown, perché vi aspettiamo tutti giovedì 26 novembre alle ore 15. E a questo punto ne approfitto anche, cara Deborah, per dare un'altra notizia per l'agenda, ma questa volta per l'agenda del 2021. Tu sai che noi ci teniamo molto al Salone del Risparmio. A Sogestioni ha deciso di posticipare l'undicesima edizione all'estate del 2021, quindi da martedì 22 a giovedì 24 giugno, andando più in là per cercare di superare questa fase di limitazioni e di condizionamenti fisici. Quindi si spera che questo Salone del Risparmio, protratto fino a giugno, spostato fino a giugno, poi possa svolgersi in maniera fisica. Prego, Deborah. In questa puntata speciale, un po', come dire, un po' particolare, lo avete avuto modo di percepirlo anche all'inizio, oggi facciamo una cosa che non sempre facciamo nel corso di questa rubrica del giovedì, e cioè vi presentiamo un libro, perché in realtà parliamo di temi di investimento di lunghissimo termine che sono dei temi con i quali dobbiamo sempre di più prendere confidenza. Allora, l'occasione è ghiotta perché vi presentiamo un libro, Investire nei megatrend del futuro, un libro scritto intanto da un collega giornalista, un amico, Massimiliano Malandra, insieme ad Andrea Forni, che è un esperto di scenari di investimento e oltre che consulente finanziario, e anima insieme a Massimiliano Malandra proprio il sito di notizie finanziarie www.investireinmegatrend.it, che è il primo sito italiano dedicato agli investimenti nei trend di lunghissimo termine. Andrea Forni, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Grazie della presentazione. Potrei anche non parlare allora, più dopo una presentazione così bella. Ma ci mancherebbe, la presentazione è solamente un di cui del ragionamento che vogliamo fare. Non abbiamo tantissimo tempo, ma direi di andare subito all'argomento più importante di questo libro, Investire nei megatrend del futuro. Ce ne sono tanti, ovviamente. Noi parliamo molto spesso dell'ambito tecnologico, dei trend legati al cambiamento climatico. Parliamo anche dei cambiamenti demografici come trend di investimento. Quali sono i più importanti, Andrea, e su che cosa si focalizza il vostro libro? Il nostro libro si può leggere come un romanzo perché racconta il mondo attuale e il mondo del futuro, analizzando dove vanno questi trend attraverso 20 scenari di investimento che passano dall'incremento della popolazione umana, che ha un incremento esponenziale, piuttosto che l'incremento dei consumi di massa o del lusso nei paesi emergenti, piuttosto che il cambiamento della dieta nel corso del tempo e nel futuro, piuttosto che a tecnologie che permeano oggi qualsiasi settore economico e qualsiasi prodotto. Sono tecnologie principalmente di tipo digitale che tutti conosciamo, come la mobile internet e così via, piuttosto che i cambiamenti climatici, perché ricordiamoci che viviamo su un pianeta Terra che ha dei limiti in termini di risorse per lo sviluppo dell'umanità. E quindi si può leggere come un romanzo, ma poi si può anche usare come un manuale pratico sia per l'investitore privato, perché appunto abbiamo 20 temi di investimento trattati con precisione, dati e aneddoti, tanti aneddoti, anche dal consulente finanziario che qui trova appunto il modo di spiegare al suo cliente il perché andare a investire in temi così magari complessi però importanti sul lungo termine. Ti permette appunto di evitare quelle oscillazioni anche violente che vediamo in questo periodo di tempo dei mercati finanziari. Investendo nei megatrend, sono trend di lungo termine, quindi queste oscillazioni verranno poi, diciamo, passate nel corso dei prossimi anni, perché sono trend che durano a lungo. Io volevo chiedere una cosa, perché avete deciso anche di associare in un certo senso un portale che è investirenei-megatrend.it al vostro libro. È una operazione, diciamo, non solita, non abituale. Esatto, beh, per due motivi. Il primo, che ci piace scrivere, che sia a me sia a Massimiliano Malanda ci piace scrivere, ci piace fare educazione finanziaria e informazione. E quindi è un portale assolutamente no profit, autofinanziato da noi, e permette di estendere anche i contenuti del libro, perché il libro si ferma alla data di stampa, anche se parla di megatrend, fino al 2050. Però intanto il mondo va avanti e quindi è importante anche tenere aggiornato il lettore e magari anche solo gli utenti del sito investirenei-megatrend.it su quello che succede appunto in queste varie tematiche di investimento. Deborah. Andrea, quali sono, un'ultima curiosità prima di andare ai mercati, all'ultimo tema di oggi, le regole per approcciarsi correttamente a queste tematiche e farle diventare dei buoni temi di investimento? Lo sappiamo che lo sono, perché altrimenti non ci sarebbe come dire, tanta divulgazione anche su questi argomenti, che bisogna far ben conoscere anche ai nostri ascoltatori, ai lettori di giornali, ai risparmiatori. Il punto è che però sono dei temi di investimento nei confronti dei quali occorre approcciarsi con pazienza, e introduco questo aspetto perché noi sappiamo bene che in genere il risparmiatore italiano è piuttosto resistente al tema del lungo termine. Come impostate anche un ragionamento in modo tale da poter aiutare il risparmiatore a cambiare mentalità, se vogliamo, Andrea? Da, bisogna guardare il mondo in cui si vive e capire che questi investimenti appunto durano nel tempo e si possono costruire anche nel tempo, no? Il problema dell'investitore appunto di informarsi su questi temi è entrare nei meccanismi dell'economia, perché secondo me senza capire i fattori economici e geopolitici che guidano il mondo, i cambiamenti sociali che ci sono, i cambiamenti tecnologici, è difficile approcciarsi mentalmente a questi temi, no? E quindi si va probabilmente poi a cercare investimenti di brevissimo termine senza avere un'ottica così più, diciamo, aperta. Ecco. Però secondo me, informandosi su come va il mondo, si riescono a fare ragionamenti che ci porteranno ad avere sia degli ottimi, diciamo, investimenti nel lungo termine, sia anche avere delle buone soddisfazioni magari nel breve termine. Su argomenti di cui pochi parlano, pensiamo per esempio un settore, secondo me il settore, secondo esatto, me dei prossimi 20 anni è lo spazio, per esempio, di cui pochi parlano, no? L'esplorazione spaziale che torna in auge, no? Dopo un periodo di eclisse, verrebbe da dire. Esatto, è stato un periodo di eclisse. Oggi l'ingresso dei privati nel settore spaziale sta creando la new space economy, cioè lo sfruttamento commerciale dello spazio. Tanto che sappiamo che nel 2024 il programma degli americani è di tornare sulla Luna con astronauti americani, entro il 2030 creare una base spaziale lunare e poi prepararsi per andare su Marte nel 2040. Ma questo significa che oltre all'esplorazione, e qui c'è lo sfruttamento commerciale dello spazio, che avrà ricadute sia nel settore stesso aerospaziale, con una miriade di nuovi lavori piuttosto che nuove attività imprenditoriali legate a tutto quello che si svilupperà intorno allo spazio, ma avrà ricadute anche sulla Terra, perché le tecnologie e i prodotti che verranno creati per lo spazio poi ritorneranno sulla Terra come nuovi prodotti e servizi. È Eccoci ritrovati in diretta. Allora Mauro, intanto chiediamo ad Andrea Forni di rimanere ancora collegato con noi perché c'è tanto interesse sulle tematiche che stavamo affrontando, cioè gli investimenti nei megatrend nel futuro, oggetto di questo libro appunto scritto a quattro mani con Massimiliano Malandra. Adesso ci ritorniamo perché ci interessa anche capire quali nuovi trend o megatrend si stanno affacciando tra di noi in questa epoca appunto del Covid, in cui stiamo vivendo moltissime difficoltà, ma probabilmente c'è qualche cosa che si sta affacciando all'orizzonte che in prospettiva potrà rappresentare anche una tematica di investimento, speriamo anche in una condizione di maggior serenità per tutti i risparmiatori. Ma caro Mauro, oggi oltre ad aver presentato l'iniziativa di solidarietà con l'Apo Elkan e oltre a presentare questo bel libro, noi questa mattina ti devo dire che teniamo a battesimo anche un'associazione, l'Associazione Nazionale dei Consulenti Patrimoniali, che sta nascendo proprio in queste ore a Roma, e noi abbiamo tirato fuori dall'evento di presentazione il neo presidente di questa organizzazione, che è Angelo Deiana, che salutiamo e ringraziamo di aver abbandonato per un attimo i suoi ospiti di questa mattina. Deiana, dottor Deiana, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Beh, insomma, siamo sul pezzo, Deborah. Quindi cerchiamo di capire proprio da Deiana. Madrina e padrino di battesimo. Cerchiamo di capire proprio da Deiana perché questa Associazione Nazionale dei Consulenti Patrimoniali, qual è lo spirito per cui sorge questa associazione? Lo spirito è chiaro: noi viviamo un mondo complesso, un mondo pandemico in questa fase, ma comunque caratterizzato da orizzonti che hanno caratteristiche di sempre maggiore incertezza. L'Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali ha uno scopo, quello di prendere il mondo della consulenza, che come voi sapete è un mondo importante, un mondo significativo, se guardate i risultati delle reti negli ultimi mesi è un mondo anche in crescita, visto che in una situazione di incertezza la famosa propensione al risparmio degli italiani aumenta ancora di più. E però il tema importante è quello di portare questo mondo della consulenza nel futuro. Il futuro qual è? È un futuro dove in realtà tutti pensano che la consulenza patrimoniale, l'alta consulenza, sia una cosa riservata soltanto ai ricchi, ma in realtà non è vero, perché la consulenza patrimoniale è una competenza orizzontale, è una tecnologia. Come tutte le tecnologie, pensate all'ABS, pensate all'airbag, all'inizio è chiaro che impatta il mondo dei più abbienti, però piano piano si evolve, migliora e alla fine impatta tutti. Consulenza patrimoniale quindi vuol dire mappare le risorse familiari e patrimoniali di ognuno di noi e cercare di trovare una soluzione in collaborazione con più professionisti, perché il consulente patrimoniale non può sapere tutto, che siano un livello di ottimizzazione migliore del precedente. È un po' quello che fa il medico, se ci pensate bene. Il medico generico, dove generico non è riduttivo, conosce il suo paziente, l'ha mappato, ne conosce la storia, quando è in grado di dare soluzioni le dà lui, quando non è in grado si rivolge agli specialisti che fanno parte del suo network. Allora oggi, Deborah, è la giornata dei siti, devo segnalare anche quello dell'Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali, perché c'è già bene. Un sito, ancp.eu, è corretto professor dottor Deiana? Assolutamente è corretto, lì si trovano tante informazioni, quello che siamo, quello che vogliamo, i nostri valori etici, perché noi riteniamo che l'etica e le performance valoriali siano performance non solo ESG, cioè environmental, social and governance, ma siano proprio performance di consapevolezza del cliente, tant'è vero che noi abbiamo partecipato e partecipiamo sempre volentieri a tutto il sistema dell'educazione finanziaria. Il mese dell'educazione finanziaria, come sapete benissimo, è stato ottobre, è finito da pochissimo, proprio perché alla maggior consapevolezza dei clienti deve corrispondere un maggior livello di competenza da parte dei consulenti. Deborah. Deiana, sì, volevo chiedere, allora, ammettendo di aver suscitato stamattina la curiosità dei nostri ascoltatori, ascoltatori che avranno già magari un consulente finanziario con il quale hanno già fatto un programma, una pianificazione della propria vita finanziaria, hanno già un commercialista, avranno già magari nella loro rete di conoscenza il notaio che li aiuta a gestire magari la situazione immobiliare. Mi chiedo qual è quel momento in cui ci possiamo rendere conto che ci serve la vostra professionalità a 360, perché voi siete proprio dei, come dire, consulenti a 360 gradi. Se andate a vedere sul sito, ci sono esperti in settore immobiliare, c'è il consulente finanziario, c'è il consulente aziendale, l'esperto in trust. Quindi quando è il momento giusto in cui la vostra professionalità entra in gioco? Ma il momento giusto è quello in cui il cliente si rende conto che avere una pluralità di specialisti come quella che è stata appena descritta è importantissimo. Però questi medici, proprio per continuare nel paragone sanitario, si devono parlare e devono avere un punto di riferimento che fa da condensazione e da stimolo. Da questo punto di vista il consulente patrimoniale non è che fa tutto, è un consulente a 360 gradi perché è in grado di capire, di fare la diagnosi e di capire qual è il progetto terapeutico, ma non è che lo segue su tutto. Lui avrà la sua competenza verticale, che è quella del consulente finanziario, che è quella dell'esperto in trust, che è quella dell'agente immobiliare ad esempio, ma nel contempo affida questa sua rete, del suo, del cliente chiaramente, un progetto che è un progetto complessivo. È lì che dialoga con gli altri professionisti e che dà un valore aggiunto al cliente, non solo di breve periodo ma anche di lungo, perché naturalmente il tema è quello del problem solving. Un'ultima domanda ad Angelo Deiana, poi lo lasciamo alla sua conferenza di questa mattina, quella con la quale ufficialmente parte la vita dell'Associazione Nazionale dei Consulenti Patrimoniali, è la prima conferenza annuale di ANCP. Deiana, avete già avuto moltissime manifestazioni di interesse, si sono già iscritti all'associazione 500 professionisti fra consulenti finanziari, commerci, avvocati, agenti immobiliari ed altre categorie. Spieghiamo che effettivamente chi si iscrive all'organizzazione non entra in conflitto con la propria categoria di appartenenza. Un commercialista che si iscrive all'associazione dei consulenti patrimoniali non per questo non è più un commercialista regolarmente iscritto al suo elenco professionale, no? Quindi vanno forse anche precisate un po' queste dinamiche, che non sono conflittuali o in conflitto di interessi, per l'appunto. Assolutamente, è correttissimo, lo dicevamo prima, la consulenza patrimoniale è una consulenza orizzontale, non va ad intaccare tutte le singole competenze verticali, dove ognuno deve avere la sua caratteristica, se ci sono dei requisiti deve avere i suoi requisiti, l'iscrizione all'ordine, l'iscrizione all'albo e via dicendo. Il tema è proprio quello di andare a mappare il quadrilatero, il rombo, come lo vogliamo chiamare, di tutti noi che siamo fatti, siamo persone, nel contempo siamo famiglie, facciamo parte di una famiglia, nel contempo possiamo avere un'impresa, uno studio professionale o un reddito da lavoro dipendente e globalmente abbiamo un patrimonio. Ma pare questa Deiana, funzione... costate tanto? Una domanda bellissima. In realtà il mercato costa in relazione a quello, un po' come succede per i medici, all'imputazione che uno dà. Ci può essere un consulente matrimoniale che ha una mandante, quindi un punto di riferimento in rete, un consulente patrimoniale che ha una banca e un consulente patrimoniale che invece lavora come libero professionista. Ma il tema non è quello del costo, è quello del progetto di lungo periodo e della capacità di risolvere problemi. Io credo che questo sia l'orizzonte che tutti noi dobbiamo perseguire, anche perché se no, come dicono tutti quelli che parlano dell'era della sostituzione tecnologica, prima o poi arriverà un robot advisor a sostituirci. Noi vogliamo andare su quel livello di competenze distintive che non ci farà mai sostituire da una macchina. Ecco, allora ringraziando Angelo Deiana e la neonata associazione, appunto Associazione Nazionale dei Consulenti perfetto. Patrimoniali, proprio su queste cose di lungo periodo e sui robo-advisor, cioè davvero gli investimenti potrebbero essere un domani gestiti dalle macchine, dai computer, io giro la domanda ad Andrea Forni, che molto cortesemente è rimasto in collegamento con noi. Lei come la vede, Forni? Eccomi, ma allora sì. Sicuramente i Rob Advisor avranno un loro posto nel panorama della consulenza finanziaria, però dobbiamo anche capire a livello demografico, in questo caso, che nel mondo oggi ci sono 6 generazioni che vivono contemporaneamente, da chi è nato a cavallo delle 2 guerre mondiali a chi è nato pochi anni fa. E probabilmente i robo-advisor saranno più diciamo così, interessanti per le generazioni più giovani, che sono generazioni nate già nel digitale, che sono generazioni connesse, che usano lo smartphone molto, molto facilmente. Probabilmente generazioni più anziane potrebbero ancora usare e preferire i servizi di persona, no? Perché c'è comunque un rapporto personale che si instaura poi con il consulente finanziario. E questo è sempre, secondo me, da guardare, tornando diciamo ai trend, a guardare sempre un pochino più in là del proprio naso e capire come è fatto il mondo. Ci vuole un po' di curiosità e capire in che mondo stiamo vivendo, ecco. Ecco, in questo momento stiamo vivendo il Covid che sta spiegando e dispiegando tutti i suoi effetti negativi, un fortissimo impatto sull'economia. Questa mattina altre preoccupazioni sono state espresse da Christine Lagarde, che ha avuto un'audizione al Comitato Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo e ha parlato di un significativo rallentamento dell'economia nel breve termine. Abbiamo ancora delle conseguenze da subire, ma il Covid sta aprendo delle prospettive, anche paradossalmente, per quanto sia possibile individuarle, forni delle prospettive positive anche in termini di temi di investimento di lunghissimo termine. Sta succedendo qualcosa anche alla luce di un evento così drammatico come la pandemia? Ma sicuramente ha accelerato una serie di tendenze, soprattutto di tipo di tecnologico o di utilizzo delle tecnologie, che erano già previste svilupparsi, ma la pandemia le ha accelerate. Pensiamo al discorso dello smart working, pensiamo all'adozione di piattaforme per il lavoro condiviso, pensiamo all'utilizzo estremo di piattaforme per lo streaming di film, di video, di musica, eccetera, eccetera. Quindi, pur nel disastro generale della pandemia, ci sono alcuni settori che hanno goduto di forti rialzi e di forti fatturati. Pensiamo al boom dell'e-commerce. Allora, se io vado al di là dell'e-commerce, vado a guardarmi per esempio il settore dell'aviazione, l'aviazione civile, trasporto passeggeri è al palo, lo sappiamo tutti, ma se andiamo a guardare il trasporto di merci cargo, questo è stato fortemente spinto dal traino del boom dell'e-commerce durante il lockdown.